vedi, al coreano ci sono i giudini per stare a me. Nel coreano ci sono i giudini. Ci sono coreano, i che si scelte, ma sono peggio. Se non mi paghiamo, te non come